strada, quella strada, sempre qua, quella strada, ogni drink, ogni pezzo, ogni blunt, quella strada, ogni giorno, quella strada, parti un call, quella strada, KQC, col mio team, giù nel posto, quella strada, ogni fra, quella strada, sempre qua, quella strada, ogni drink, ogni pezzo, ogni blunt, quella strada, ogni giorno, quella strada, parti un call, quella strada, KQC, col mio team, giù nel posto, quella strada, merda, i miei down with the street, bounce KQC, in the house con gli spliff, ferma. Guarda lì la police, non ci torno in caserma, amico, fugo di qui. E lo sound dei tuoi magazine, giù nella strada fanno su, planta family. E se in strada fanno rap, quale beat, quale beat, mi tu imparano da me. Come fa? Nella strada, vai rap, nella strada, fagli show, ma ti mando K.O. Nella strada, ehi gringo, avrei vinto coi tu brada. Quando nella strada la mala vestirà Prada. Nella street, le team, richiedono il boost e pensi di essere chic. Perché fai il pusher con le buste nel booster, gli armani e gli occhiali. Ma i miei raga giù in strada fanno gara per i mani. Con il fra, nella strada, sempre qua, nella strada, ogni drink, ogni pezzo, ogni blunt, nella strada, e ogni giorno, nella strada, parti un call, nella strada, KQC, col mio team, giù nel posto, nella strada. Con il fra, nella strada, sempre qua, nella strada, ogni drink, ogni pezzo, ogni blunt, nella strada, e ogni giorno, nella strada, parti un call, nella strada, KQC, col mio team, giù nel posto, nella strada. Giro in città, coi peggiori del bar, fatto persa a parlare nei club con i trans, e mi fan son qui a passarmi un altro drink, mentre io che mi sbrocco di botto su jeans. E la più faccio al club, passo di là, sono chic con il bling, stanotte ci sta. Poi la sorpresa che c'ho, passando proprio di là, e vedermi la puttana col jolly con classe A. Shake Teresa, se tuo mondo va a merda, chi ci pensa? Io fuciccio l'erba, il resto che importa, mentre chiamo un altro pusher e spero che mi risponda. Con il fra, nella strada, sempre qua, nella strada, ogni drink, ogni pezzo, ogni blunt, nella strada, e ogni giorno, nella strada, parti un call, nella strada, KQC, col mio team, giù nel posto, nella strada. Con il fra, nella strada, sempre qua, nella strada, ogni drink, ogni pezzo, ogni blunt, nella strada, e ogni giorno, nella strada, parti un call, nella strada, KQC, col mio team, giù nel posto, nella strada. Con il fra, sempre qua, ogni drink, ogni pezzo, ogni blunt, e ogni giorno parti un colpo, KQC, col mio team, giù nel posto. Come fra, sempre qua, ogni drink, ogni pezzo, ogni blunt, e ogni giorno parti un colpo, KQC, col mio team, giù nel posto.